Il cammino di Gigi D'Agostino e sta per cominciare, anzi comincia adesso. 16 novembre 2006. Oggi ho la febbre, sto molto male, ma la musica mi piace e la vita è così bella che sta febbre mi sciacqua la mozzarella. Se per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? È antica roba, va. Capito come? Ovvio. Lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Ciao, sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Musica allo stato puro. Sono Mauro da Milano. Vorrei fare una dedica speciale a Cristina. Mi hai contagiato con il virus dell'amore. Sei una donna meravigliosa. Cammino di Gigi D'Agostino, la radio a colori. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, just as long as you stand, stand by me. Cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 19 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Torino. Discoteca La Gare. Così e se vi par. Domenica pomeriggio ci vediamo alla Gare. Minchia che rima. Ciao Gigi, grazie per la bella musica che pensi e realizzi per noi. Seguo sempre il tuo cammino, sorseggiando del buon vino. Mario, il fornaio di bovino. Che rima. Il cammino di Gigi D'Agostino è meglio di un buon bicchiere di vino. Massimo di Santa Croce sull'Arno, Pisa. Ma che sei ubriacato? Portaci un altro litro, va. Il cammino di Gigi D'Agostino, musica che unisce. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te, vedo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Oh, di Gigi D'Agostino, la musica pendente. Volevo sapere e soprattutto ascoltare il tuo pezzo preferito per dedicarlo ai miei amici scioddrati. Che dici? Scioddrati. Ma soprattutto ascoltarlo. Aspetto le tue note violente. Vale da Cosenza. Uno dei tanti brani preferiti dal maestro è questo qua. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mano, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani, per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani, per Gigi D'Agostino, sì. Aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani, per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria. Per Gigi D'Agostino. Fermamosi un momento, parte lento violento, e vi... Parte maestro, corteadro, erburattino, Gigi D'Agostino. Un saluto a mio padre, che quasi ogni giorno con la volante è in giro per lavoro e che purtroppo non può ascoltarti. Lorena. We'll be right back.

guarda invece noi. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella, è suonata la campanella. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Dalla camera al salotto, con la radio, faccia il botto. C'è Gigi D'Agostino, col suo mitico cammino. Ci sentiamo De Maranza e balliamo la sua danza. Max e Bruno, camminando sempre con te. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Sabato 18 novembre 2006 Gigi D'Agostino suona alla discoteca Roncaccio, Bizzarrone, Como. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Pompa sangue ai miei muscoli e insieme a loro la mia mente si allena veloce alla ginnastica mentale. Josué. Ginnastica mentale

I really don't think you're strong enough now. Il cammino di Gigi D'Agostino. Caro Gigi, vorrei tanto poter ascoltare Con te partirò, il tuo remix. Spero che possa portarmi verso il mio vero cammino con l'aiuto del destino. Un saluto a Elena Danza. Ile dalla provincia di Udine. Ma che è un amico tuo. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò. D'Agostino, reparto pelle d'oca. Momento mi sento un pulcino bagnato. Claudia. Thank you.

Gigi. Oh, Gigi. Gigi. A Gigi. Oh. Di al mio amore, Giovanni di Messina, che non vedo l'ora di rifare l'amore con lui. E adesso dopo glielo dico. Carla, da Napoli. Anche oggi abbiamo fatto un piccolo tratto di strada insieme. Grazie per tutto questo. Ci sentiamo domani.